qualcuno in frequenza? C'è qualcuno sul canale 10? Becker, Becker, c'è qualcuno? C'è qualcuno su questo canale? C'è qui canale 10? C'è qualcuno? Tutti molti gente. C'è qui canale 10? C'è qualcuno? E avanti? Avanti. Buonasera. Buonasera, avanti. E chi sei? Chi sei? Tutto per amplificato. Non mi senti bene? Forte, amplificato. Ah, Giulio sono, che sei? Gavino, sì. Giulio, buonasera, Bacchisia. Che sei? Non ho capito, scusa. Ho detto Bacchisia questa parte, stavo spazzolando, cercando a Marmurino. Ah, ciao Bacchisia, perché avevi una voce di tutta diversa, si vede che stai usando qualche microfono che io ancora non conosco. Un microfono, un vecchio microfono e poi un vecchio radio, sto usando la vecchia Multivolle 3. Ma va benissimo, però va benissimo, ma che sì, va benissimo. Ma io sto facendo bene, lo sto strappando? No, lo sto andando bene, poco fa strappi, adesso va bene. Bene, bene, dai, vado a cercare a Marmurino Giulio, se lo trovo a qualche parte ci sarà. Va bene, grazie del controllo Giulio, buona serata, sentiamo poi. Se puoi passare sul 23 penso che troverò Marino sul 23. Ok, ma che? Dai, mi faccio la scappata anch'io, vediamo un po' che c'è. D'accordo, dai. A dopo. Prendi, c'è qualcuno che chiama, fate sul 23. E lo sento male. Vediamo, facciamo 23. Ok. C'è qualcuno su 10? Bobo, tutti i muti sedi.